cosa mi aspetto, io no, non lo so. Se qualcosa accadrà, io no, non lo so. E davvero non so ancora cosa farò. Oh no, soddisfatto di tutto, ma spesso a metà. E costretto a sorridere se non mi va. Per fortuna che adesso io so che ci sei, ci sei. Sono riuscito a capire cos'è che non va, che bisogna sudarsela la libertà. Nel mio modo di fare tu adesso ci sei, ci sei. E aspetteremo insieme il sole, lo guarderemo e faremo l'amore, per i problemi faremo sparire, sì, vedrai. Se ci sei tu, se sei con me, non penserò a niente, no, dai vieni qua, non andar via, da me, da me, da me. Problemi no, io non ne ho, vivendo il giorno insieme a te, non scapperò, stavolta no, io no, no, no, no, no. Che obiettivi mi pongo, io no, non lo so. Se ho toccato mai il fondo, io no, non lo so. E per questo non so ancora come sarò. Oh no, come un piatto indigesto che non mi va giù. Il mio modo di vivere nella realtà. Io non posso sognare se non ci sei tu. Oh no, ho bisogno di tutto e di complicità. Di dividere un letto e la stanza a metà. Nel mio modo di vivere adesso ci sei, ci sei. E quando fuori sarà tutto spento, e quando il cielo sarà uno specchio per noi, e quando il tempo non mi basta più, e sento ancora che tu sei tu, sei tu, siamo noi, sei tu, sei tu, siamo già noi, ma tu, io so che puoi, tu puoi volare di più, volare di più. Volare di più, volare, volare. E aspetteremo insieme il sole, lo guarderemo e faremo l'amore, per i problemi faremo sparire, sì, vedrai. Se ci sei tu, se sei con me, non penserò a niente, no, dai vieni qua, non andar via, da me, da me, da me. Problemi no, io non ne ho, vivendo il giorno insieme a te, non scapperò, stavolta no, io no, no, no, no, no. Se ci sei tu, se sei con me, non penso.